24 mattino. 8, 19 minuti, 24 secondi, benvenuti fra i cani e i gatti, vedo lì Oscar Giannino con una montatura risorgimentale, è con noi collegato al telefono Davide Faraone, corre dall'aeroporto e quindi lo sentiamo proprio al volo, buongiorno. Buongiorno. Allora Faraone, lei ha terremotato la politica italiana con quelle parole alla 7 rilasciate contro Grasso. Che cosa si sente dire il giorno dopo? Si pente? Tiene fermo il punto di dire non ha avuto coraggio? Che cosa aggiunge? Io non credo di aver terremotato nulla. Ho semplicemente detto e parlato di un fatto oggettivo. Noi avevamo proposto a Grasso la candidatura a presidente della regione. Siamo stati qualche settimana in attesa di una risposta che poi è stata negativa. Credo che questo sia un dato di fatto e credo che chi fa politica sia oggetto a critiche come tutti coloro che ci mettono la faccia e decidono di farla. E non credo che se uno propone una critica nei confronti di un uomo politico piuttosto che su un altro, su qualcuno lo si può fare, su qualcun altro no, per cui in maniera molto libera, in maniera molto tranquilla. Cioè lei dice Grasso non è un intoccabile, non può esserlo, giusto? Ma questo no, è nessuno di noi, chiunque ma fa è politica ovvio. Non è intoccabile. Tra l'altro io ho rispettato le dichiarazioni di Grasso, che ad esempio ha deciso di uscire dal mio gruppo parlamentare, dal gruppo del PD, proprio su un passaggio delicato che è stata l'approvazione della legge elettorale, con parole anche durissime nei confronti del mio partito. Per cui, così come è stato legittimo per Grasso poter dire quello che pensava rispetto a questo tema, io credo che sia legittimo da parte mia dire che c'è stata questa responsabilità. Naturalmente poi si è costruito giornalisticamente il tema: Faraone vuole accollare a Grasso la responsabilità. Non è così. No, io so no. Bene che la responsabilità non è solo quella, ma infatti era un ragionamento in cui questo tema di Grasso era contestualizzato in un tema più generale. No, ma vede, è un nodo cruciale, perché l'unico non è nel metodo, cioè lei ha tutto il diritto di criticare Grasso, ha ragione a dire che Grasso non è un perché il presidente del Senato è intoccabile. La cosa che colpiva è perché Grasso sarebbe stato tenuto ad accettare. C'è la libertà in questo paese, se Grasso pensa che il PD sia un partito che sta sbagliando rotta, ha tutto il diritto di rifiutare una candidatura. Assolutamente, ma infatti è legittimo proporsi oppure no. Naturalmente la proposta in quel caso lì non come, era solo del PD, si era proposto era dell'intera coalizione, perché in quel momento, quando fu proposta la candidatura di Grasso, eravamo dentro un contesto di una coalizione ampia, la stessa coalizione che aveva vinto l'elezione amministrativa a Palermo qualche settimana prima, per cui quella candidatura stava in quel solco lì. E io sono convinto del fatto che se avessimo mantenuto quella continuità e quella candidatura avremmo vinto anche in Sicilia. Ah, quindi con Grasso avreste vinto? Con una coalizione unita di tutto il centro-sinistra e con la candidatura di Grasso, ma devo dire che una coalizione unita anche Micali sarebbe stata una candidatura competitiva. Non dico che era certa la vittoria, ma sicuramente saremmo contesa. Invece quello che è accaduto è che l'effetto che normalmente si pratica alle amministrative sul secondo turno, e quindi la valutazione del voto utile, invece sulle elezioni regionali si è praticato al primo turno. Allora la mia e ultima domanda non riusciva e quindi votavano col voto e poi la palla passa a Oscar. Due cose: uno, avevamo in ballo una cena con crostacei e ostriche, perché io avevo scommesso che la coalizione del PD avrebbe preso meno del 30%, lei però aveva scommesso che il PD avrebbe fatto un risultato buono. Caro quindi siamo a metà strada, che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare alla romana, perché il PD ha preso il 13%, la coalizione però è andata male. La nostra scommessa era su un'altra cosa, perché si era creata quella leggenda metropolitana che Fava e la sinistra avrebbero scavalcato il centro-sinistra, e io dissi: è impossibile, accetto scommesse con chiunque. Ma è vero che siamo andati nettamente sopra. Ma non ho proprio parlato di quello. Però la domanda era, oltre alle nostre scommesse, la domanda era: è un buon risultato del PD e un pessimo risultato della coalizione, oppure queste elezioni sono un pessimo risultato del PD? Ma andatevi a guardare. Allora, se la valutazione è elezioni regionali passate, noi l'altra volta abbiamo vinto le elezioni regionali perché la destra era divisa. La destra insieme, MCG, che Musumeci prese allora circa il 40%, oggi Musumeci prende il 38%. Noi però la vostra coalizione 30, aveva il 30 e ora il 18. Il 30 è loro, soltanto perché loro erano divisi. Oggi la nostra coalizione prende il 25, perché ripeto, il tema del voto di giunta è stato un tema legato alla nostra alla comprensione che noi non eravamo dei contendenti diciamo autorevoli in questa competizione. Prendiamo il 25, prendiamo più della volta scorsa come coalizione attorno al PD. Naturalmente però col centrodestra unito abbiamo perso, è matematica questa qui, per cui naturalmente mi aspetto le elezioni politiche invece una crescita, perché la volta scorsa come PD prendemmo il 19 fra lista civica, Megafono e PD, questa volta prendiamo il 23, quindi io credo che alle politiche andremo meglio, così come i 5 Stelle l'altra volta presero più voti alle elezioni regionali, questa volta mi aspetto che invece abbiano un calo sulle elezioni politiche. Oscar, due osservazioni. La prima è che Renzi mi pare che dia una lettura diversa dalla sua, perché io leggo dalla stampa di oggi: Micari lo ha scelto Leo Luca Orlando, io ho fatto ritirare Faraone. Mi sembra un esprit delle scalie del giorno dopo di Renzi, un po' ingeneroso nei suoi confronti, però è completamente diverso dal taglio politico di quello che lei da ieri propone. Cioè Renzi non fa più polemica contro gli altri, e su questo punto in realtà le chiedo un'opinione sulla questione politica di fondo, cioè quella del ritorno alle alleanze da parte del PD. Oggi Antonio Polito sul Corriere scrive: Renzi resterà segretario del PD, ma la sua linea politica è sconfitta, e la dimostrazione è che chiede oramai parossisticamente coalizioni dopo aver per anni predicato lo splendido isolamento della sua leadership. Sbaglia Polito secondo lei? Ma io reputo che intanto non ci sono due posizioni distinte, tra l'altro. Pronto? Eccolo, pronto? Sì. E diceva, non ci sono due posizioni distinte, fra l'altro? È la prima volta che mi capita che c'è qualcuno che dice che è una posizione diversa da Renzi, comunque lo so, è surreale, però lo legge sulla stampa di oggi, comunque. Era per dire che Renzi è proteso alle alleanze. Polito dice sì, però lui come fa a proporre, dopo aver per 3 anni detto che non aveva bisogno di nessuno e aver assistito sorridendo alla gente che se ne andava? Ma ci sono intanto delle novità. La prima, l'analisi del voto ci deve indurre a stare uniti, per cui il tema delle alleanze è un tema che pongo, che pone Renzi, e c'è una novità, che è la novità della nuova legge elettorale, di un centro-destra che è riuscito, seppur nelle diversità, a compattarsi. Il centro-sinistra deve avere la stessa forza di costruire una coalizione unita, anche se ci sono delle differenze su alcuni temi, su alcuni punti, proprio per evitare che il Movimento 5 Stelle e il centrodestra possa prevalere. Perché a destra riescono a stare insieme pur con enormi differenze in virtù del sistema maggioritario che abbiamo messo in campo con la legge elettorale approvata, e a sinistra tutto questo non è possibile? Io credo che la lezione siciliana ci impone di stare uniti, perché la destra che si è unita ora, quando alle elezioni politiche passate fu divisa in Sicilia, è diventata vincente. Noi dobbiamo fare la stessa operazione. Su diversi giornali, il Corriere della Stampa si fa addirittura il nome di Grasso come possibile candidato di tutto il centrosinistra a livello nazionale. Non è una provocazione, ma volevo chiederle cosa ne pensa, se le piacerebbe. Noi abbiamo una leadership che è stata messa in campo non da Davide Faraone, non dal ceto politico o dai notabili, ma da elezioni primarie. Questa leadership è quella di Matteo Renzi. Dopodiché Matteo Renzi in maniera generosa ha detto dal primo giorno che lui non metterà mai se stesso avanti a tutto rispetto alla costruzione della coalizione ampia, ma noi ci proponiamo dentro questa coalizione ampia con una leadership autorevole, che c'è, e quella è Matteo Renzi. Ho capito, quindi punto, la leadership è di Renzi e non ci sono possibilità per altri giochi da quello che... ognuno della coalizione di proporre fare altre proposte. Ad esempio il centrodestra sta decidendo di affidare la leadership eventuale alle primarie che ci saranno le elezioni nazionali, quindi a chi prenderà più voti. Cioè noi Matteo Renzi si è mantenuto assolutamente aperto rispetto a tutte le altre ipotesi. Una cosa non è accettabile: il veto nei confronti di un leader scelto da milioni di cittadini e che tra l'altro in tutti i sondaggi e in tutti i sondaggi il PD è stato enormemente il perno del centro-sinistra della prima Forza d'Italia. Sinceramente accettare veto e ricatti da partiti infinitamente più piccoli mi sembra un po' eccessivo. Bene, allora grazie a Davide Faraone e mi raccomando la cena, casomai possiamo dividere. No, però ma ha perso la scommessa, poi rivedremo il nastro. No, difendo Davide Faraone, la scommessa riportata da lui. La scommessa era sulla coalizione. E dunque, è importante, 800 24 00 24 per le vostre chiamate. Caro Oscar, ma te lo immaginavi che la regina avesse il tesoretto alle Cayman, la regina d'Inghilterra? Gesù santo. Allora, ti invito a leggere Federico Fubini stamattina, perché quanto la fate come sempre demagogica. Che cosa succede da quest'anno? Federico Fubini, che oggi scrive sul Corriere della Sera un articolo sulle criptovalute, secondo me non molto informato, infatti io gli ho fatto un tweet gentilissimo, io lo cito spessissimo Federico Fubini, è un punto di riferimento, però è meglio che legga un po' sulle criptovalute Paolo Savona sul Sole 24 Ore, che spiega bene come sono la risposta all'inutilità dell'antiriciclaggio. Però detto questo, oggi il pezzo inizia con la risposta alla domanda che mi fai tu, cioè qual è questa domanda? E tu dici, i paradisi fiscali, la regina. Allora, per effetto degli accordi, dei grandi sforzi internazionali fatti in questi anni con gli Stati Uniti e l'Europa insieme, a oggi tutti i soldi investiti in posti come Andorra, Anguilla, Antigua, Aruba, le Isole Vergini, Cayman, tanto per dirtela chiara, Grenada, Jersey, l'isola di Man, il Liechtenstein, Mauritius, le Marshall, Singapore, hanno con i governi nostri, con quello britannico, con quello europeo, il dovere di dirci qualunque utilizzo del denaro che i cittadini liberamente mettono lì. Quindi i giornalisti si adeguino, capiscano che nel mondo globalizzato gli accordi di scambio dei dati obbligatori, capisci cosa vuol dire obbligatori, si sono estesi, quindi la dobbiamo piantare di considerare paradisi fiscali, perché mentre prima la libertà di mettere soldi, come fa l'amministratore della regina, non lei, sono 10 milioni di euro dell'amministrazione del Ducato di Lancaster, che è ciò da cui la regina ricava i suoi redditi, non li ricava dallo Stato direttamente, però lì l'ha scelto un sottoposto, non la regina. Però mentre fino ad anni fa l'utilizzo in quei soldi era un utilizzo di fronte a cui la Gran Bretagna, se fosse l'Italia, è un italiano, l'Italia, sapeva niente, adesso saprà tutto. Quindi resterà la libertà di allocare soldi in paesi con minori tasse, e io batto le mani, e l'argomento delle facili campagne, purtroppo, che anche in questi giorni fioriscono sui giornali, che si dimenticano forse di informare i lettori che c'è lo scambio obbligatorio di informazioni, fioriscono. Io faccio giornalista e dico: abbiamo fatto bene, questi accordi, bene. Sul Corriere della Sera Battista fa una ramanzina per Bono, allora o sbagliano tutte e due, non sbagliano nessuno. Federico Fubini segue più di Pierluigi, che è un amico, in questi accordi. E infatti, lui stesso che fa l'articolo contro l'elusione è costretto a iniziare l'articolo con la cosa che ti dico io. E infatti è corretto così. Viva Fubini in questo. Allora, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità. Ricordate, multa all'autista del pullman dei bambini che ha parcheggiato lasciando il finestrino aperto. Non si fa. In furia un dibattito sul costo della benzina e del diesel. Ne parliamo subito dopo. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. '24 mattino. Rieccoci, cani e gatti. Allora, dicevamo, tante storie. Il tema di cui parleremo ora con Oscar è la strage del Texas dovuta alla suocera, l'hai visto? La strage del Texas dovuta alla suocera è un archetipo ancestrale, cioè, nelle famiglie. Pensa quanti milioni di maschi, leggendo quei titoli sui giornali, dicevano l'avevo detto io, eccetera eccetera. Io non però sono morti dei bambini, quindi ma è questo sto dicendo io, quei titoli fatti così, scusami, io a volte critico come noi facciamo, no, in generale bisogna distinguere individualmente, però il titolo c'è dovunque, come hai visto. E io mi pongo la domanda, tutti si saranno posti il problema di fronte a quello che è successo, è corretto fare un titolo così, per niente, e invece richiamare purtroppo... il lettore, le copie perse, eccetera, eccetera. Tutti fanno il titolo stereotipato, perché la mia opinione è che, vista la gravità della strage, e questo che è completamente fuori di testa, e oltretutto nell'ambito di un problema, le armi diffuse negli Stati Uniti e la frequenza di queste cose negli Stati Uniti, fare il titolo che mette il colore del litigio con la suocera, per me, per il mestiere che facciamo, è completamente sbagliato. Questa è la mia opinione. D'accordo. E ti volevo chiedere se secondo te ha fatto bene o male Di Maio, dicendoti la mia opinione, a rifiutare il confronto con Renzi. Secondo me ha sbagliato, perché il confronto va fatto sempre, cioè non è stata una mossa furba. Il tentativo, la tentazione di dare un calcione in faccia a Renzi gli ha fatto fare, secondo me, un errore dal punto di vista, come dire, della dirittura che uno deve tenere, perché se chiedi un confronto, poi lo fai, punto. Certo, uno può dire: ma Renzi è quello che ha detto Fassina chi? Renzi è quello che ha spernacchiato 100 altri, ma non è che uno deve ripagare tutti della stessa moneta. Che ne pensi? No, io penso soprattutto che, visto che la sfida l'ha lanciata lui, cioè Di Maio, è lui che entra in contraddizione, perché, come evidente, chi è intorno a lui, il suo staff, il suo partito, la sua base, gli ha detto fai così. La sfida l'ha lanciata lui, non è che rinuncia o cambia idea dopo aver accolto la sfida lanciata da Renzi. Quindi, da questo punto di vista, la mia modesta opinione è che siamo in presenza di una nuova conferma di uno stile di leadership, ancora tutto da verificare, semmai si affermerà Di Maio, ma molto incerto e soggetto a passi indietro su sfide che lancia lui per primo. Questa è la cosa che mi colpisce di più. Poi la regola generale, lo sai che in politica, e vale sempre, vale negli Stati Uniti come in qualunque paese, è chi è su posizione di forza non sfida mai chi è più debole di lui, e oggi, dopo le siciliane, Renzi è più debole di lui, però è stato lui a venire meno a questa regola lanciandogli il guanto di sfida. Quindi, ecco, io complessivamente la penso come te, ma sono soprattutto colpito dal fatto che, se uno sfida, oltretutto gli diceva non rispondi su Twitter, non rispondi mai, Renzi poi gli risponde, così secondo me non ci guadagna. Detto questo, io non ho capito se questa sera poi Renzi è da solo o c'è Dibba. Tu hai capito? No, credo che non ci sia Dibba, forse ci saranno dei giornalisti. Luigi da Parma. Prego, prego Luigi. Eccomi. Volevo solo far notare che nel commento sui risultati delle elezioni in Sicilia nessuno mette in evidenza un fattore che per me invece mi pare determinante, che è il ruolo dell'UDC. Forse siete troppo distratti nell'organizzare il funerale a Renzi, ma l'UDC era in coalizione con Crocetta nel 2012 ed è stato determinante per la sua vittoria, si è spostato nella coalizione, è tornato nella coalizione del centrodestra quest'anno ed è stato determinante per la vittoria di Musumeci. Scusi, Alfano quando è tornato al centrodestra? No, stiamo parlando dell'UDC, di Cesa, ma io ne ho parlato anche nei giorni scorsi, perché ho letto le interviste, perché non solo Cesa ha partecipato alla cena dell'arancino, ma ha portato una dote al centrodestra, gli ha portato il simbolo ora contestato dello scudo crociato. E quindi è molto importante. Io non sono dell'UDC. No, no, ma è molto importante la sua segnalazione in un giorno così, perché Alfano, che si è spostato, Alfano che si è spostato nel centro-sinistra non ha raggiunto il quorum, e l'UDC che si è spostata nel centro-destra ha fatto questo risultato, e secondo me la ritroveremo nello stesso modo nella coalizione per le elezioni nazionali. Massimo da Vicenza. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io torno un attimo. Prego, prego. Caduta, mi sa. No, buongiorno. No, vada, cioè, vada. Allora, torno sulle parole dell'ospite Faraone, se non sbaglio, no? Circa la legge elettorale, perché sono rimasto un po' basito da queste parole, perché dice che la legge elettorale è... obbliga a coalizionare. Ecco, perfetto. Allora, due cose. La prima, o sono incompetenti o hanno fatto un autogol, perché se ne accorgono dopo le elezioni in Sicilia, delle due l'una. Seconda cosa, la parola impone a fare delle coalizioni presuppone il fatto che di programmi non se ne parli. Questo è proprio esattamente il contrario di quello che vogliono i cittadini. Massimo, posso dire una cosa? Mi perdoni, d'accordo, Faraone, 100%. Perché non è in linea, adesso non è in linea. Faraone mente sapendo di mentire, lo so, dico una cosa brutale, non dovrei dirla così. Però il punto è che la legge elettorale è congegnata in maniera tale che le coalizioni non siano determinanti, perché infatti per il maggioritario, dove sono ammesse le coalizioni nelle candidature uninominali, vale un terzo degli eletti, mentre la maggioranza del Parlamento, quindi l'imprinting fondamentale prevalente alla legge elettorale, è proporzionale. Per questo Renzi se l'è costruita mettendo d'accordo con Berlusconi, dicendo facciamo questa legge, non vince nessuno, mani libere, ma ognuno di noi esercita meglio la sua leadership nella scelta dei candidati nominati. Quindi su questo, quando scoprono oggi che obbliga le coalizioni come se fosse una legge maggioritaria, mi dispiace, chi l'ha votata in Parlamento mente sapendo di mentire, perché siccome ha perso queste elezioni, dopo aver detto la leadership solitaria, deve inventarsi adesso un modo per cui in 24 ore lo stesso leader che ha proposto la leadership solitaria e ha firmato una legge elettorale che a maggioranza è proporzionalista, quindi i partiti vanno per i fatti loro e poi fanno finte coalizioni, infatti non c'è programma, non c'è leader indicato, non le coalizioni, ma è ovvio perché la legge elettorale è proporzionale per i due terzi. Adesso dicono in 24 ore che quello stesso leader è quello che farà le grandi coalizioni e che è sempre stato chiaro così, anzi che è sempre stato chiaro che non è mai stato candidato premier, dopo che ci hanno ripetuto per 2 anni che l'ha scritto nello statuto. Questa è la contraddizione purtroppo del PD oggi, e mi dispiace che l'ascolta, non dite che siamo antirenziani a dirlo, sono semplicemente fatti. Vada Massimo, dica. No, lei dice che mentono sapendo di mentire e li fa più furbi di quello che pensassi. Io pensavo che fossero delle incompetenti. No, incompetenti no. Furbi sicuro, perché... Perché comunque quei 200 collegi, stante che tutto quello ha detto Oscar è vero, quei 200 collegi, se li becca in grande maggioranza il centrodestra, peseranno. Cioè non vale il contrario, ma se il centrodestra vince il 70% dei collegi con la prevalenza nel centro-nord, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte e anche in Sicilia, peseranno sul piatto. Diciamo però agli ascoltatori che quando anche vincessero, ed è ce ne vuole, ma come dici tu giustamente, oggi potrebbe quasi avvenire il 70% dei collegi nominali, potrebbe avvenire come ipotesi, non dico la realtà, comunque avrebbero bisogno di più del 40% del voto proporzionale per avere la maggioranza. Assolutamente sì. Quindi è una cosa però che non esiste. il dato siciliano è un dato che si avvicina a questi standard. È la regione in cui il centrodestra è sempre stata storicamente forte, nel resto sì, d'Italia però c'è anche Veneto, Lombardia, attenzione, cioè, ma nei sondaggi non si è mai dice vista Massimo questa... Cioè la domanda da farsi è perché il PD ha votato una legge che un minuto dopo pone la domanda come mai ti mette in quelle condizioni. Sì. Abbiamo Barbara da Udine. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, per la lucidità vostra che non è quella del paese. Ascoltando Faraone abbiamo l'ennesima conferma che queste persone giocano, adesso si gioca a dare la colpa a Grasso oppure a qualcun altro, parlando di un dramma italiano come la Sicilia, perché è un dramma da tutti i punti di vista, e ancora Di Maio, di cui avete commentato il forfè, è un'altra dimostrazione e secondo me è molto triste, perché forse una parte del paese vedeva in questi nuovi esponenti politici qualcuno che avesse un po' di più lucidità, razionalità e anche forse onestà intellettuale. Questa giustificazione mi sembra una giustificazione da bambini dell'asilo, come dare la colpa a Grasso da parte di Renzi e di una parte del PD. Dove andiamo? Da nessuna parte. E io a 45 anni credo di essere una delle rappresentazioni del della parabola discendente di questo paese. Si spiega l'astensione, infatti così si spiega l'astensione. È la generazione mia, è a causa di questo. Infatti vivo un po' un dramma in questo senso. Ho una storia personale drammatica di un padre che ha fatto delle scelte drastiche dopo aver lottato, un professionista. E io mi sento un po' in colpa perché dico, siamo cresciuti in un certo modo, ma quando siamo resi conto che il nostro paese non è più questo, forse anche noi non abbiamo lottato abbastanza e non stiamo lottando abbastanza, e chi ne subirà le conseguenze drammatiche sono i nostri figli. Non ne ho, quindi i vostri figli sono i miei figli. I nostri figli, quelli e di sono, tutti. Esatto, esatto. E sono purtroppo coloro grazie, che fanno. Grazie Barbara, è veramente una sorta di testamento, come dire, di testimonianza, ecco, che è bello avere in questa radio, perché è l'Italia che si preoccupa, è l'Italia che pensa e non porta il cervello all'ammasso. E posso dire una cosa? Io condivido il fatto, naturalmente non riguarda la nostra ascoltatrice, ma lei parlava a nome di una generazione. La generazione dei 40-50 anni, in effetti, c'è una responsabilità, perché si è allontanata dalla politica. Quelli che stanno in politica sono più che altro, perdonami, caudatari rispetto al leader. Questo spiega da una parte perché Berlusconi è ancora in campo dopo tanti anni nel centrodestra. Io ho scritto ieri 100 funerali risultati vani, ma il problema è che quello che oggi leggo sulla stampa mi consente di dire, beh, Berlusconi te ne rendi conto adesso, il titolo della stampa secondo me è molto utile, a pagina 3 non ci sono i problemi sulla sinistra, ce ne sono anche a destra. La vittoria agrodolce di Silvio, ho fatto il gioco dei sovranisti, perché la destra italiana non è liberale per modo di dire, diciamocelo bello chiaro che su Europa, moneta comune, vincoli, bilancio, non è mica quella del 94 a parole, poi abbiamo scoperto che era diversa. Allora, la nostra ascoltatrice che dice la generazione 40-50 anni ha una responsabilità, si è allontanata dalla politica perché non ci si ritrova, e quando fa politica non è in grado di scalzare vecchie leadership, proporre nuove idee, nuovi stili, perché lui ha criticato anche lo stile per esempio di Di Maio, che delude. Ecco, in questo secondo me coglie un fatto, perché oggi la generazione dei quarantenni in politica sono quasi sempre caudatari, e questa è la cosa che a me colpisce. È vero, come sono documentati, Giuseppe, fedele commentatore di Sesto San Giovanni, ci ricorda, sì, ma un anno fa Renzi non rifiutò il confronto con Di Maio perché non rappresentava i 5 Stelle, è vero. Noi ci eravamo addirittura dimenticati, io almeno ammetto la mia colpa. Francesco da Bologna. Buongiorno. Eccoci. Grazie per l'intelligenza e il garbo della trasmissione. Grazie a lei. Volevo due sassi di tranaia. Uno, dato l'astensionismo sempre più alto, non sarebbe opportuno che i partiti ripensassero un attimino, non tanto il loro ruolo, ma la loro conformazione. Così come sono, non sono rappresentativi. Quindi credo che non a livello istituzionale, ma a livello di autocritica interna, ognuno, e questa deve essere un'operazione generale, deve ripensare a com'è. Il secondo punto, e qui non vorrei essere accusato di cose strane, una testa a un voto, benissimo, democrazia, perfetto, ma trovare la maniera di avere un imprinting, di avere una patente di laicità intendo dire di libertà intellettuale, per andare a votare senza subire sbalzi umorali da una volta all'altro, non sarebbe, capisco che è un problema più filosofico forse che politico, però non sarebbe il caso. Io le dico no, cioè sono d'accordo su tutto, non sulla patente per votare, perché altrimenti entriamo nelle repubbliche degli ottimati, nei paradisi delle distopie, dove uno vale due e ci mettiamo già uno vale uno, sta creando un po' di problemi. Senti, si figuri uno vale due. Luca, però spendiamo anche una parola sul fatto, se c'è una ragione per cui la gente poi non si riconosce, è anche perché la politica ripropone gli impresentabili dovunque. Cioè, voglio dire, vale quello che dicevi ieri tu, a Messina non gliene frega nulla. Esatto, di il figlio di Fracantonio, che oggi quello parla, che continua a mietere successi ereditando un trono di affari. Beh, questo a molti dicono, fatevela voi la politica. Dove è avvenuta la chiusura di Micari? Su un traghetto. Appunto. E che cosa fa il papà Fracantonio? Gestisce anche traghetti. Allora, Linda da Verona. Pronto? Sì, prego Linda, buongiorno. Allora, senta, io ho guardato per curiosità il sito del Ministero dell'Interno, giusto per avere un po' un'idea, e mi sono resa conto che non è che siano cambiate tanto le cose dal 2013 adesso, e poi ritengo che la Sicilia non sia lo specchio dell'Italia, per cui non capisco tutta questa confusione che si sta facendo. Beh, però Linda, aveva vinto Crocetta appoggiato alla sinistra, adesso vince Musumeci, cioè la destra, cioè non è proprio la stessa differenza. Cosa, capisce? Sì, forse hai ragione, non ho tenuto conto di questa cosa. Ma poi tenga presente che da domani, cioè già da oggi della Sicilia non si parla più, e si parla delle nazionali. Già, abbiamo parlato di Ostia per un mese, adesso abbiamo scoperto che lì Casapound può prendere il 10%, la domanda è: può prenderlo anche a livello nazionale, come si chiede il tempo oggi? Cioè, tutti questi appuntamenti sono stati preliminari della grande battaglia che è qui davanti agli occhi fra poco. Anzi, Oscar, hai visto che Mattarella, per non sbagliarsi, vuole, l'hai visto il retroscena di Breda su Corriere, vuole allungare la legislatura di un altro mese all'estremo limite possibile. Quindi, signora, ecco qua. Questo è il problema, che tutto questo sta preparando la grande battaglia delle finale delle politiche. Oscar, vuole dire qualcosa? No, io volevo, scusami, oggi mi ha molto colpito questa vicenda del quadro nudo di Fassino rimosso. Lo conosci questa vicenda? C'è la vicenda è questa. Perdonate, io ogni tanto sorrido perché sono le vere tragedie. Mi dà l'idea che, come sempre, abbiamo una percezione della politica un po' strana. La vicenda è questa in due parole: c'è un quadro esposto a una esposizione di arte contemporanea che si chiama Paratissima di Torino. L'autore è un artista che già ha fatto parlare di sé per le sue opere, si chiama Javier Scordato, e Javier Scordato è un argentino, e il problema è che c'è un quadro con un Fassino nudo assutissimo, ed è discutibile quanto volete, ma insomma stiamo parlando di un quadro e soprattutto libera espressione. Al posto delle parti intime c'è un peperoncino e due marò. Questa roba tanto ha fatto parlare a Torino che alla fine il quadro è stato rimosso, l'autore parla di censura. Allora, potete pensarla come volete, poi il quadro può essere bello, brutto, ma se siamo al punto di far rimuovere un quadro, per quanto discutibile, perché Fassino è, come dire, un oltraggio alle istituzioni, ma io dico veramente, ma no, c'è l'obbligo, però non c'è, non me c'è l'hanno mandato nulla. Ora la banda di persone che abbiamo qui dietro questo vetro, Rachele, sì, Antonella, Valerio, che, ai e quali Alessandro dobbiamo gratitudine perché Luca, sono quelli, esatto, con cui facciamo, ricordiamo, stanno ridendo da mezz'ora per questo quadro, me l'hanno mandato, se lo vedesse un bambino potrebbe essere un ma problema. Dai, su. Comunque, detto tutto questo, è un piccolo particolare che dà l'idea di come la politica a volte sia, secondo me, si piglia troppo sul serio, cioè, ripeto, poi adesso io non voglio mischiare l'alto e il basso perché c'è l'Hebdo, è una tragedia, però abbiamo fatto tanto per dire che siamo con quelli che fanno satira e poi facciamo rimuovere i quadri per i marò al posto delle parti intime dei Fassino. Io conosco abbastanza Fassino per sapere, lo conosci anche le parti intime, Luca, no, da Roma, conosco qua Fassino per immaginare rosse, che è un eccesso, Oscar, di zelo dei suoi collaboratori, ecco. Ecco, Luca da Roma, buongiorno, salve. Buongiorno, io volevo intervenire in merito anche relativamente alla due ascoltatrici fa, paragonando l'assenza di Di Maio all'incontro con Renzi alle colpe date a Grasso dal PD e mettere sullo stesso piano. Si parla sempre di 5 Stelle come incompetenza, eccetera, ma qualcuno se lo ricorda Renzi quando faceva le interviste in inglese o quando faceva il venditore di macchine per la spending review e faceva proclami. L'abbiamo ricordato tutti i giorni e non risparmiamo niente a nessuno. Allora, abbiamo Michele da Barletta a cui chiediamo di richiamare domani perché non ci arriviamo. Rachele Caraccio, Antonella Migliaccio, Valerio Rocchetti, Alessandro Chiappini, Luca Sapino e poi il grande Oscar Giannino. Pensierino finale. Cioè oggi nuovo incontro sui sindacati sulle pensioni. Ricordate quello che dice Tito Boeris: non scatta più il tetto automatico. 140 miliardi di deficit previdenziale in più dal 2021 al 2040. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.